Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati e buona Pasqua da Maria Luisa Pezzali. Dal prodotto al servizio, questa è la formula vincente di chi ha deciso di puntare sull'e-commerce agroalimentare. Sono i consumi in scatola, chiamiamoli così, a conquistare gli utenti, prodotti freschi già dosati e pronti all'uso, completi di ricette e tutorial per utilizzarli al meglio, addirittura per riprodurre piatti stellati. Il modello della sharing economy si allarga a nuovi settori. Vi raccontiamo una startup italiana, l'Airbnb degli spazi temporanei. Paper mania, infine, la tendenza della settimana. Il design punta alla carta e all'effetto carta. A servirci il pranzo, la cena a casa fosse la consegna a domicilio non del cibo pronto, bensì degli ingredienti selezionati, preparati e dosati, magari da ristoranti stellati, con tutte le indicazioni per realizzare il piatto a casa, indicazioni complete anche di video ricetta. Questa è l'idea di Fansit, la startup che ci trasforma in grandi chef. Basta un click e ci arriva a casa una scatola che contiene tutto l'occorrente per cucinare la nostra cena gourmet. Giulio Mosca è uno dei fondatori. Fansit è la nostra startup e praticamente è un servizio che consente di ricevere a casa propria dei kit per cucinare, ricette gourmet spediti direttamente dai migliori ristoranti italiani che noi andiamo a selezionare. Quindi, per essere ancora più chiari, sul nostro sito scegli un menù che più ti ispira, sono divisi per categorie carne, pesce, vegetariani, e decidi quando e dove riceverlo, e con un packaging che è refrigerato e quindi dà la possibilità di spedire ingredienti di alta qualità freschi, lo ricevi a casa con poi le istruzioni per andarlo a replicare. Ingredienti dosati e puliti nel caso sia necessaria anche una preparazione, così? Esattamente, perché il nostro scopo è quello di poter dare a tutti la possibilità di ricreare dei piatti di alta cucina. I ristoranti con i quali collaboriamo preparano gli ingredienti in modo tale che lo sforzo del cliente sia ridotto ai minimi termini, ma soprattutto il margine di errore sia prossimo allo zero. Quindi una ricetta, chiamiamola così, antispreco, e in questo ci sta la dosatura degli ingredienti, e antifallimento, perché lo hai spiegato, è molto facile. Sì, infatti non si trovano solamente ingredienti crudi, diciamo così, ma si trovano anche alcune prelavorazioni. Un esempio possono essere ad esempio delle cotture a bassa temperatura, piuttosto che delle creme, delle salse. Spesso i dessert che andiamo a inserire sono già fatti, perché poi lo sappiamo, i dolci sono quelli che richiedono più tempo per essere preparati. Quindi ad esempio in un nostro menù c'è un bounet, e ovviamente il bounet arriva già fatto, rimane solo poi da impiattarlo e appunto guarnirlo con uno zabaione e della granella di zucchero. I prezzi delle scatole, dacci un'idea. Abbiamo diverse fasce di prezzo. Partiamo da un minimo di 19 euro a persona fino ad arrivare al massimo, per quanto riguarda un ristorante stellato da una stella Michelin, di 60 euro a porzione. Ma diciamo che la nostra media va dai 22 ai 25 euro a persona. Quali città coprite? Noi spediamo in tutta Italia, lavorando con ristoranti selezionati in varie città d'Italia. Una cosa molto interessante magari è poter ordinare da Roma un menù piemontese o viceversa. Attualmente però i ristoranti li abbiamo solamente a Milano, a Torino, e ce ne sono alcuni in arrivo a Genova. Questa è la parte un pochino più complicata per noi, quindi un grosso lavoro di ricerca da parte dei ristoranti, e poi, come potete vedere dalle nostre pagine social, per ogni ristorante che si aggiunge al nostro network facciamo delle interviste, delle fotografie dedicate, facciamo molto storytelling. Quindi la parte su cui più stiamo lavorando adesso è quella di la parte di ricerca ristoranti per aumentare l'offerta. Il nostro obiettivo a breve termine, entro la fine di quest'anno, è di avere almeno un ristorante per ogni regione d'Italia. Questa ricetta, per così dire, del consumo in scatola, io la chiamo così, è una ricetta che accomuna varie realtà in giro per il mondo che propongono l'acquisto di prodotti freschi online, perché aggiungendo al prodotto un servizio si riescono ad abbattere le resistenze, se ci sono, all'acquisto di prodotti alimentari online. È una riflessione che avete fatto anche voi? Assolutamente, esistono varie realtà, soprattutto nei paesi anglosassoni, nello specifico più in Inghilterra, soprattutto anche negli Stati Uniti, che propongono servizi molto simili al nostro. Il mercato italiano è interessante e difficile allo stesso tempo, perché come tutti sappiamo siamo tutti molto legati al cibo. Quello che non siamo ancora molto abituati a fare è acquistarlo online, perché viene visto come una cosa un pochino non naturale. Non è così, è solamente un'evoluzione della fruizione di un prodotto, e quindi la nostra idea di collegare soprattutto il cliente al ristorante riesce un po', sicuramente è riuscita ad attenuare questo problema. L'arrivo sul mercato di un colosso, il mercato del fresco online intendo, come Amazon Fresh, anche in Italia, a voi fa gioco, perché, come dire, traina un po' la cultura di questa tipologia di consumo o cosa? Ma sicuramente sì, quando diciamo che si è piccoli e si deve aprire un mercato è assolutamente una cosa molto difficile. Più siamo e più grandi sono gli altri players a proporre servizi analoghi, diciamo che appunto è una cosa che può giocare a nostro favore, perché più l'acquisto online di food diventa un acquisto quotidiano, è più semplice per noi abbattere le barriere di cui parlavamo poco fa. L'altra startup che vi voglio raccontare sulla scia della stessa tendenza è Cuomi, che ci consegna a casa la nostra spesa settimanale abbinata ai menu online, menu che cambiano di settimana in settimana con prodotti italiani di qualità, freschi e anche in questo caso già dosati con tutte le istruzioni per cucinare. Daniele Buttini. Noi diciamo che siamo la Lego del cibo, perché noi consegniamo a casa dei nostri clienti ricette con gli ingredienti già nelle giuste dosi, pronti per essere cucinati. Mandiamo anche le istruzioni, quindi chi riceve il nostro box, la nostra scatola, deve solo, tra virgolette, assemblare quello che arriva seguendo le istruzioni che noi mandiamo, e poi quindi godersi il piatto che è pronto e facile da realizzare, quindi si può mangiare e gustare senza problemi. Ogni settimana un menù con ricette diverse. Ogni settimana noi presentiamo un menù dove ci sono 9 ricette diverse, misto fra pasta, riso, risotti, carne, pesce, mettiamo sempre almeno un dessert, quindi cerchiamo di offrire la più ampia varietà possibile. E all'interno di queste 9 ricette i nostri clienti possono scegliere da un minimo di 2 o un massimo di 4 quelle che vogliono ricevere ogni settimana. E abbiamo deciso, proprio per nostra policy, di lavorare ovviamente solo con prodotti stagionali. Lavoriamo il più possibile con prodotti e produttori bio, sia per la carne che per il pesce che per frutta e verdura. Siamo attenti ovviamente molto alla qualità. Il profilo tipo di chi può usare Cuomi, a chi avete pensato? O a coppie o a famiglie, perché i nostri piani sono ad oggi, poi magari in futuro sicuramente introdurremo anche quelli per single, ma sono coppie, quindi 2 persone, oppure famiglie, perché abbiamo anche il piano famiglia da 4 persone, quindi 2 adulti e 2 bambini. Non abbiamo, diciamo, riferimenti geografici precisi, noi abbiamo sempre pensato a le grandi città, ma vediamo che abbiamo molti clienti anche nei centri medio-piccoli. In quanto tempo arriva a casa l'ordine e che range di prezzi avete? L'ordine arriva ad oggi tutti i martedì. Noi siamo un servizio che va, diciamo, fare la spesa per la settimana, quindi noi ad oggi spediamo il lunedì e consegniamo il martedì in tutta Italia, proprio perché così riusciamo a mantenere la freschezza dei prodotti, visto che spediamo anche carne, pesce e formaggi. A breve, appena cresciamo ancora un po', introdurremo 2 o 3 giorni di consegna alla settimana in modo da rendere il servizio più flessibile. Il costo in realtà è molto in linea con quello dei supermercati. Oltre al prodotto, il servizio è un trend promettente. Guarda, Qomi nasce da un'esigenza. Io e Andrea, che abbiamo fondato Qomi, ci siamo conosciuti lavorando insieme a Berlino per una società sempre in ambito internet, e lì nasceva proprio l'esigenza del non riuscire mai a mangiare qualcosa di buono perché non si trovavano i prodotti giusti. Sulla base di questa esigenza abbiamo detto: ok, perché non uniamo le nostre competenze, la nostra passione per il mondo del cibo e il fatto ovviamente di essere italiani, e lo facciamo. E quindi da questo momento ci siamo messi un po' a studiare il mercato, abbiamo visto che nei paesi del Nord Europa e negli Stati Uniti questo servizio, perché poi è veramente un servizio, quindi questo modello stava funzionando benissimo, stava già esplodendo. Abbiamo visto che in Italia ancora non c'era nessuno che lo faceva, noi crediamo che ci sia un grande potenziale, quindi da questo è nato Qomi. L'e-commerce sta crescendo ancora a ritmi vertiginosi in Italia, in tutti i settori. Il food è ancora un mercato molto, cioè il cibo molto giovane, ma il fatto che anche grandi player internazionali, e non per ultimo Amazon, che ha deciso di far partire il suo Amazon Fresh in Europa come primo mercato dopo il Regno Unito in Italia, ci indicano che non siamo solo noi visionari che vedono grande potenziale, ma anche i grandi player vedono questa forte opportunità, e questi sono tutti i segnali che ci dicono che il mercato è in grande crescita. Anche il mondo del retail e degli eventi sperimenta il modello Airbnb, spazi temporanei in condivisione. Ne parliamo tra pochissimo, subito dopo la pausa, nel focus sui trend, spazio anche alla paper mania. Restate con noi. Essere e avere. Di nuovo in studio con Essere e Avere, spazi temporanei dai pop-up store alle location per eventi in condivisione. Questa è l'idea alla base di What is Space, una sorta di Airbnb degli spazi temporanei. Abbiamo chiesto l'ok per questa definizione alla fondatrice Daniela Galvani. Sì, assolutamente. What is Space è la prima piattaforma online per l'affitto temporaneo di spazi commerciali. Aiuta aziende, creativi e giovani imprenditori a trovare lo spazio giusto per organizzare eventi o temporary store. Di quali tipologie di spazi stiamo parlando? Abbiamo delle vetrine in vari quartieri di Milano, abbiamo oltre 400 spazi oggi su Milano, poi andiamo da capannoni, ville, piscine, giardini, ci sono spazi di tutti i tipi, veramente utili sia per organizzare eventi che fare shop sharing o temporary shop. Come funziona? Funziona in maniera molto molto semplice, proprio molto simile ad Airbnb. Il proprietario dello spazio si mette in contatto diretto con l'azienda che lo contatta tramite proprio la piattaforma, quindi c'è una messaggistica interna dove l'azienda chatta direttamente con il proprietario, gli chiede se è possibile prendere in affitto per alcune date e per organizzare appunto un evento oppure per vendere il proprio prodotto. Voi a chi vi rivolgete? C'è un profilo tipo di user di What is Space? Per noi l'ambizione più grande è quella a cui stiamo puntando, è cercare di portare temporaneamente offline tutti gli e-commerce e le aziende che lavorano online e che quindi temporaneamente possono raccontare in maniera fisica, diciamo, la propria azienda, il proprio prodotto, raccontare e incontrare personalmente i clienti, che magari, sai, online è difficile vederli o incontrarli, perché oggi è vero che se non sei online non sei nessuno, ma purtroppo, o per fortuna, dipende dal punto di vista, il 90% delle vendite avviene ancora fisica, in maniera offline. E quindi noi siamo un trade union dal mondo online al mondo fisico e cerchiamo di dare opportunità soprattutto anche alle giovani aziende come la nostra di poter essere temporaneamente, anche solo per alcuni giorni, per una settimana, nel mondo fisico. Da qualche giorno fate parte della Pop-Up Alliance. Che cos'è? Abbiamo unito i vari What is Space sparsi per l'Europa, spagnoli, francesi, tedeschi e anche in verità una startup come What is Space che c'è a Hong Kong, sotto un grande cappello che abbiamo chiamato Pop-Up Alliance. Ovvero adesso noi siamo presenti a Berlino, a Parigi, a Barcellona e Hong Kong e loro sono presenti a Milano. Ed è fantastico perché comunque è un'alleanza generata dal basso. Abbiamo cercato di praticamente unire le nostre forze di noi piccoli start-upper per riuscire a essere anche oltre il confine italiano. Focus sui trend. Protagonista la carta nel focus sui trend di questa settimana, un materiale oggetto di profonda riscoperta e rivisitazione negli usi più classici, ma anche in quelli più inaspettati per oggetti fuori dall'ordinario. Ce li facciamo raccontare da Lucia Cromezca di Future Concept Lab. Ciao Lucia, bentrovata. Buonasera a tutti. Allora, l'ispirazione per questa tendenza che fa della carta un campo di sperimentazione artistica, di sperimentazione per il design, non può che arrivare dallo stilista, dal designer che ha fatto delle pieghe del plissé la propria cifra distintiva. Certo, parliamo di Sai Miyake, tutti ne parlano in questo momento, e il designer stilista che negli anni 80 ha iniziato a sperimentare nuovi metodi di plissettatura per abbigliamento, accessori, che consentono però la flessibilità di movimento. Lui è diventato famoso in tutto il mondo anche con la sua collezione Pleats Please. Infatti solo qualche settimana fa, durante la settimana della moda parigina, è stata presentata anche la sua monografia celebrativa. Addirittura la National Art Center di Tokyo gli dedica una mostra per i 45 anni di carriera nel mondo della moda e del design, intitolata The Work of Miyake Issei. È stata presentata una collezione ispirata dallo stilista alla Stockholm Design Week e il progetto L'Itala per Sei Miyake. Una collezione di piatti, vassoi e tazze che però riprendono la tecnica giapponese come ispirazione, se la fondono con la poetica finlandese, e poi le forme sono quelle del pentagramma, la stera origami per intendersi. Sono 30 oggetti che sono belli da vedere perché i segni distintivi di questi oggetti proposti sono legati alla plissettatura, le pieghe a spina di pesce o a zigzag, anche se i materiali usati sono la ceramica, il vetro e il tessuto, veramente un focus sulla malleabilità della carta. Quindi materiali diversi che però nell'effetto riprendono assolutamente le pieghe della carta. Passiamo, Lucia, agli oggetti che hai selezionato per questa tendenza. Oggetti vari, ecco, anche qui il marchio per esempio Eco Wallpaper ha presentato alla fiera parigina Maison Objet sempre qualche mesetto fa una collezione che si chiama Eco Front. Di che cosa si tratta? È una collezione di 9 modelli di carta da parati. È un progetto sviluppato dallo studio, famosissimo studio svedese Front. E che cosa sorprende? Sorprende il fatto che le carte da parati proposte sono rigorosamente bianche, ma i designers hanno fatto un sapiente gioco di tagli e di ombre e hanno creato delle percezioni di profondità su questa carta da parati con un effetto tridimensionale. Ecco, il trio svedese ha usato veramente, cioè, il design per sviluppare dei pattern di ombra sulla carta bianca, e poi si sa che la carta bianca si può abbinare con qualsiasi tipo di arredamento. Invitiamo gli ascoltatori ad andare a vedere la gallery sulla nostra pagina Facebook. Sembrano veramente tridimensionali, Lucia, poi invece andando a vedere più nel dettaglio si scopre questo disegno a carboncino, appunto, con questo effetto di luci e ombre veramente molto bello. È la magia del design. Un'altra rivisitazione di un utilizzo classico della carta che mi segnali, Lucia, il paralume. Sì, Butler, così si chiama la nuova collezione di lampade progettata da Eric Levy per Delta Light. Lui propone una rilettura dell'archetipo del paralume, addirittura lui racconta che ha proprio tratto ispirazione da una passeggiata in bicicletta a Parigi anni fa, durante la quale lui ha visto una grande pila di carta piegata usata per creare questo effetto plissé. Per questa interpretazione contemporanea invece ha puntato sulla realizzazione di questa collezione di lampade in polimero con un rivestimento altamente resistente. Sembra alluminio ma è polimero, ma è un materiale adatto per ambienti interni che esterni, con la carta non si potrebbe mai fare. Accennavamo anche agli utilizzi più insoliti per questo materiale, i gioielli di carta, molto di tendenza. Un altro intervento poetico. Ecco, trasformare la carta in materia preziosa per la realizzazione dei gioielli. Questa è l'arte di Anna Hagopian. Lei è argentina e plasma la carta con una grandissima capacità artigianale. Produce infinite creazioni di forme, texture sulle collane, orecchini, bracciali. Si ispira alla natura. Però dice in una sua intervista: la carta è contraddittoria, provocatoria e umile perché è effimera. E lei lavora verso questa direzione. Per l'ultimo caso che hai selezionato, torniamo all'effetto carta. Crescono i progetti tra il mondo analog e digital, questo lo stiamo dicendo da parecchie puntate, e qui vediamo carta devices. L'esempio è Reflex, uno smartphone flessibile, quasi come una carta, è un prototipo ovviamente sviluppato da alcuni ricercatori della Queen University, è in grado di flettersi abbastanza ma conserva le caratteristiche multitouch. Che cosa significa questo? Che i sensori sul retro del display sentono la forza con cui lo schermo viene piegato e questo permette delle nuove possibili interazioni tra il contenuto e il gesto dell'utente. Si potrebbe immaginare un futuro in cui, ad esempio, uno scorre le pagine di un libro solo torcendo il telefono, o addirittura si potrebbe anche simulare il movimento di un flipbook. Ci sono delle immagini bellissime anche da vedere sui video di questo Reflex. Video che postiamo anche questi sulla nostra pagina Facebook. Il gesto, Lucia, è proprio quello del libro, di far scorrere le pagine quando si cerca ad esempio un passaggio, una pagina che si è persa. Gli archetipi della carta anche in questo. Grazie per il tuo contributo, Lucia Cromesca, alla prossima. Alla prossima. Il consumautore. Dalle nuove parole chiave del marketing e della comunicazione ai fenomeni di mercato, di prodotto, passando per i numeri, le tendenze, i contributi del mondo accademico, questo è il nostro percorso alla ricerca della nuova dimensione del consumo, e a guidarci c'è come sempre Francesco Morace. Buonasera Francesco. Buonasera Maria Luisa, a tutti voi. Il tema di questa sera è legata a una parola, come spesso avviene, americana, che è gamification, e l'idea che nella nostra esperienza sempre più il gioco torna a diventare centrale, ma non nel senso, per fortuna, del gioco d'azzardo solo, ma nel senso che le regole del consumo sono legate a questa idea di una partita, e su questo devo dire che è di grande spunto l'attività di un economista, che è Luciano Canova, che ha scritto due libri, Pop Economy e La scienza dei gol, che ci introduce proprio questa idea di gamification, cioè osservando ad esempio le regole del gioco del calcio possiamo capire anche le logiche del consumo. Mi fa piacere questa tua segnalazione. Luciano Canova è un amico, è stato ospite più volte di Essere Avere, e vorrei ricollegarmi proprio a questa tua citazione per l'uso intelligente, maturo del filone pop. Tu hai avuto occasione di dirlo anche qui in trasmissione più volte, il filone che ha reso ad esempio Expo un evento così di successo, di pubblico ma anche di contenuti. Certamente, capire che l'economia davvero non è più, o non deve più essere, la scienza triste, è la scienza solo dei numeri e delle misurazioni, peraltro materiali, di un progresso materiale, ma è sempre più incrociata, o torna ad essere, la scienza della vita. Economia dai cost, casa è la nostra casa, ecco. Quindi quello che Luciano Canova fa nei suoi libri è, in modo credo anche spigliato e appealing per esempio per i ragazzi, per i suoi studenti, di ragionare, leggo il sottotitolo di uno dei due libri, su numeri e statistiche applicati allo sport più bello del mondo. Quindi bisogna anche trovare un modo nuovo di ragionare seriamente su fenomeni che sono comunque parte della nostra vita quotidiana. Veniamo da una vera e propria indicazione digestione di digitale, Francesco, dall'uso dei social ai contenuti pubblicitari, la presenza quindi delle aziende sul web. È il momento in qualche modo di selezionare, di capire, ecco perché questo grande successo, questa grande attenzione sui big data? Assolutamente, rimane importante la dimensione immersiva di tutta questa, diciamo, storia, perché quello che il gioco ti dà è anche l'immersione emozionale e capire big data, ma attraverso logiche che sono esperienziali, ecco, questa è la vera chiave. Quindi continuare a ragionare sui numeri, certamente, ma incarnarli in attività che possono essere anche di grande stimolazione emotiva. Grazie a Francesco Moraci e grazie a Paolo Corleoni in regia. Essere Avere torna come sempre domenica prossima. Non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.